Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, come sempre, è una cronaca che come già ieri si intreccia ovviamente con la cronaca politica. Allora, però partiamo dai mercati. Oggi c'è un tentativo, seppur molto incerto all'inizio, di recupero. Un recupero a cui partecipa anche Milano, più 1,30%, Parigi più 1,60%, Francoforte più 0,80%. Devo dire altalenante, perché poi in realtà a metà giornata la borsa era arrivata sulla parità, quindi è zero la variazione. Adesso il recupero sembra verso la conclusione essere più certo. Devo dire, non ci sono variazioni enormi sui titoli, soprattutto su quelli che ieri molto avevano perso, mi riferisco ai bancari, con cali tra l'8 e il 10%, e infatti i bancari oggi sono fermi o in lieve recupero. UniCredit più 1,25%, Banco Popolare invariato, Popolare Milano meno 0,70%, Monte dei Paschi meno 2,16%, va a 20 centesimi di euro il titolo Monte dei Paschi. Mediobanca meno 2,80%, meglio fa Intesa San Paolo più 1,50%, e soprattutto meglio fa, da un lato, Mediaset più 1,85%, ma dall'altro STMicroelectronics più 3,70%, Buzzi Unicem più 3,60%, Generali più 2,30%, come Tenaris. Il 2% lo guadagnano anche Autogrill e la Popolare Emilia Romagna, nonché Fiat e UbiBanca. Questa è la borsa, ed è un fattore. L'altro fattore però è di nuovo estero, su Italia potremmo dire, ossia la visita del Presidente della Repubblica Napolitano in Germania. Ne parleremo fra poco, dovrebbe iniziare la conferenza stampa, e da un lato, dall'altro l'incontro Barroso-Monti che dovrebbe iniziare alle 18.30. È chiaro che le domande che verranno fatte a Monti, ma anche poi c'è stato un episodio anche diplomatico che ha contraddistinto la visita del Presidente della Repubblica, ha annullato infatti l'incontro con il leader dell'SPD, cioè dei socialisti democratici tedeschi, Steinbrück, perché ieri Steinbrück il Presidente della Repubblica ha annullato questo incontro, perché ieri Steinbrück aveva detto nelle elezioni italiane hanno vinto due clown, uno di professione e l'altro no. Allora, sono inorridito dalla vittoria di due clown, anzi poi un clown con troppo testosterone e quant'altro. Allora, ha fatto bene il Presidente della Repubblica, non si prende per il sedere l'esito elettorale italiano. Tra l'altro vedo anche lo Spiegel oggi che parla di fare la solita battuta sulla pizza, gli italiani. Poi c'è chi mi scrive su Facebook: lei è ossessionato dalla Germania. No, a me sembra che siano i tedeschi ossessionati dall'Italia, visto i toni del commento. Non so, ricordiamoci, le battute non si fanno mai. Quando la fece Berlusconi, giustamente fu molto criticato su Angela Merkel, non si fanno neanche da parte dell'SPD. Dire che due clown hanno vinto vuol dire fare una battuta obiettivamente fuori luogo. Ha fatto bene Napolitano a annullare l'incontro, ma cosa siamo? Tra l'altro, ancora su questo è intervenuto il commissario europeo alla concorrenza Gioacchino Almunia, che ha detto: le cause del voto italiano mi preoccupano, i risultati mi preoccupano, è a serio rischio la governabilità, ma le motivazioni del voto sono da ricercare in Italia e non a Bruxelles. Ma troppa grazia Sant'Antonio. L'Italia sta facendo i compiti da un anno e lo scontento del voto deriva anche da un insieme di effetti delle politiche di rigore. Per questo è il mio commento, ci mancherebbe. Ma ancora abbiamo invece altri commenti, perché il Times di Londra dice: poteva andare anche peggio, e a noi fa venire in mente, poi lo ascolteremo anche, ma non dice poteva piovere, poteva andare anche peggio, perché dice il Times poteva vincere Silvio Berlusconi e sarebbe stato un disastro. Comunque La condivisione di potere e quindi il governo di larga coalizione sarebbe una grave battuta d'arresto per l'Italia e per il resto d'Europa. Le Figaro che dice l'Italia è ingovernabile spaventa l'Europa. La Bild appunto ha detto pizza quattro stagnazioni, questo è il titolo in italiano della Bild, dice i quattro protagonisti delle elezioni, Bersani, Monti, Grillo e Berlusconi, hanno consegnato il paese in uno stallo da piangere. E poi questo voto non ci piace per nulla, le sorti dell'Italia anche lui sono nelle mani di due clown. E vabbè. Poi no, questo dicono solo una cosa. Allora, questi sono i toni della stampa tedesca e anche del leader dell'opposizione tedesca. Se però io dico che Angela Merkel deve, e la sua politica si sta rivelando, a mio avviso, fallimentare per le tensioni che sta creando e perché l'economia non riparte, vengo accusato su Facebook da alcuni di voi di essere ossessionato, di come mi permetto di parlare in questo modo dei tedeschi. Cioè, allora, facciamo una cosa. O tutti parlano in un certo modo o nessuno lo fa. Non è che noi dobbiamo prenderci le solite accuse di pizza, spaghetti, mandolino, due clown e quant'altro. Comunque uno la pensi, non me ne frega nulla. E poi se ci permettiamo di dire che tutta la gestione della crisi dalla Grecia in poi a guida tedesca è stata fallimentare, e lo dimostra quello che è successo, veniamo accusati di essere accecati dall'odio antitedesco, ma per favore. Di questo parleremo, poi avremo anche, dovrebbe essere anche ospite nostro, il responsabile economico del PD, e mi riferisco a Fassina, perché vorremmo capire con lui, prima eravamo in par condicio e vi avevo già spiegato che non mi interessava essere obbligato a sottostare alla par condicio. Adesso non siamo più in par condicio, vorrei capire al PD, che tuttora comunque è il partito che dovrebbe far sapere che tipo di alleanza vuole fare se vuole creare un governo, quali siano le sfide economiche e gli obiettivi economici che ha in mente, anche perché su questo, a mio avviso, l'essere stati poco chiari, poco incisivi anche sulle politiche economiche, quindi le risposte all'economia, è uno dei motivi per cui il PD ha avuto un risultato deludente, ad essere buoni. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Notizie, torniamo a un po' di normalità oggi. Oro poco mosso, $1,611 l'oncia, petrolio in calo a $92,43 al barile. La crisi o la non crisi all'estero, perché lo dico? Perché l'India dovrebbe chiudere 2013 con un PIL in crescita del 6% grazie anche ad una ripresa dell'economia globale. Invece continuano, e qui vengo all'Italia e all'Europa in generale, a non avere un grosso effetto l'immensa liquidità che la Banca Centrale Europea ha riversato nel sistema finanziario. Perché? Perché è la stessa BCE a dirlo, nonostante i prestiti che ha concesso alle banche europee, tra cui molte di quelle italiane, attenzione, a gennaio i prestiti a imprese e famiglie sono calati ulteriormente, cioè un calo più forte rispetto a dicembre, meno 0,9%, a dicembre hanno fatto meno 0,7% e a novembre meno 0,8%. Nel caso specifico i prestiti al settore privato nell'area euro hanno fatto meno 0,4%. Situazione diversa in Germania, perché il gruppo Volkswagen ha annunciato che, alla luce dei profitti record raggiunti nel 2012, quasi 22 miliardi di euro, brava la Volkswagen a raggiungere questi profitti, pagherà un bonus da 7.200 euro a 100.000 dipendenti in Germania. Già l'anno scorso aveva dato ai suoi dipendenti un bonus di 7.500 euro. Lo ha deciso oggi l'amministratore delegato Martin Winterkorn. In totale verranno pagati 14 milioni e mezzo tra salario, bonus e incentivi, a fronte del 17 milioni e mezzo nel 2011. Saranno però diminuiti i compensi degli altri 8 membri, cioè al consiglio di amministrazione della Volkswagen andranno meno soldi rispetto all'anno prima. E questa è anche un'indicazione importante. Bravi tedeschi, brava la Volkswagen. Un po' come avviene da noi, dice ridendo al tecnico, magari. E cioè, mentre vengono premiati i dipendenti da Volkswagen con un bonus simile a quello dell'anno scorso, 7.200 euro, i membri del consiglio di amministrazione si tagliano i loro bonus di 3 milioni di euro, diminuendo i compensi di tutti gli 8 membri. Dalla Germania alla Grecia il salto è drastico, 8 famiglie su 10 non riescono a pagare i debiti. Questo è il quadro del paese delineato da un sondaggio della Public Issue, secondo cui oggi più di 8 famiglie, appunto l'84%, hanno difficoltà oppure sono nell'impossibilità di pagare debiti e prestiti. Con l'intervento del Fondo Monetario Internazionale e la firma del memorandum con la Troica, quindi Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, le condizioni di vita dei greci sono peggiorate e praticamente non riescono a pagare nemmeno le spese più banali, le tasse, l'affitto della casa, le bollette delle utenze o a tornare i prestiti ottenuti dalle banche. Faccio notare, è bene sempre ricordarlo, che qualche settimana fa il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Blanchard ha detto: sulla Grecia probabilmente abbiamo sbagliato, visti gli effetti che stiamo ottenendo, cioè che la recessione continua ed aumenta invece che farle uscire dalla recessione. Parleremo anche dell'effetto Italia. Dunque, questa mattina le agenzie hanno ripreso, l'agenzia di rating Moody's, che ha detto l'incertezza dell'esito del voto in Italia è negativa e per il rating italiano rischia di essere una brutta notizia. C'è il rischio che si riaccenda la crisi nell'intera area euro. E ancora il Wall Street Journal che dice: tutti i rating, tutti i voti dell'area euro sono a rischio dopo le elezioni italiane. Come va lo spread? Volete sapere? È volato questa mattina oltre 350 punti base, ai massimi da dicembre, poi è tornato a 340. Oggi il Tesoro ha collocato tutti e 4 i miliardi del BTP a 10 anni, quello che si usa per calcolare lo spread. E quindi la domanda c'è stata, nessun problema, peccato che abbiamo pagato tanto. Abbiamo pagato invece che il 4,17% di gennaio, il 4,83% di interesse. Vuol dire che dobbiamo pagare più soldi di interessi a chi ha comprato il nostro debito, e non è poco, perché siamo appunto allo 0,60% di differenza in un mese, ed è il rendimento più alto, quindi il BTP più costoso per l'Italia da ottobre dell'anno scorso. Una cosa poi che dovrebbe lasciare un po' perplessi è che mentre sullo spread la Spagna è ancora sopra di noi di 40 punti, sui CDS, ossia credit default swaps, io li chiamo i premi assicurativi che si pagano per assicurarsi contro il rischio Italia, come il premio di una polizza assicurativa: più tu sei un automobilista pericoloso, più alto il tuo premio; se tu sei un automobilista affidabile che non fa incidenti, il tuo premio è basso. Allora il premio misura il rischio dell'automobilista, i CDS misurano il rischio percepito dal mercato di un paese. Ebbene, i nostri hanno superato oggi, seppur di un punto, quelli sulla Spagna, quindi il premio che si paga per assicurarsi contro il rischio Italia è più alto del premio che si paga per assicurarsi sul rischio Spagna. Ma consoliamoci con due buone notizie: i formaggi italiani continuano ad avere e a correre sui mercati internazionali, a avere nuovi record, il giro d'affari più 4% l'anno scorso a 2 miliardi. E poi sono 4 ragazzi italiani di 27 anni gli sviluppatori di quella che è stata definita l'app per gli smartphone, l'application per gli smartphone più la migliore al mondo al Barcelona World Congress. È un'applicazione Android, si chiama Atuma e permette di creare personalizzazioni sul cellulare. Può eseguire un insieme di compiti, mandare da solo un sms ogni volta che arriva a casa, attivare viva voce quando si è in macchina, eliminare la suoneria se si è al lavoro, cioè lavora da solo. fra un po' avremo il cellulare senza neanche più il possessore del cellulare. Comunque, bravi questi quattro ragazzi. Altre buone notizie oggi purtroppo non ne ho. E allora partiamo con il primo tema e mi riferisco all'accoglienza al voto italiano. Alle 18.30 il Presidente della Commissione Europea Barroso incontrerà il Presidente del Consiglio italiano Mario Monti, Presidente del Consiglio uscente, e il tema sarà proprio la situazione politica istituzionale in Italia dopo le elezioni. Domani Monti avrà un altro incontro con il Presidente permanente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy. Allora, no, vedo alcuni messaggi che dicono no, hanno fatto bene i tedeschi a darci sia sulla Bild che poi la dichiarazione del capo dell'opposizione Pier Steinbrück, che oggi il Presidente della Repubblica Napolitano giustamente, a mio avviso, non ha voluto incontrare, ha cancellato l'incontro. Hanno fatto bene a dire che hanno vinto due clown. Ma scusate, non so... E poi Steinbrück, pensate, pochi istanti fa ha detto quel che è detto, non torna indietro Pier Steinbrück e ribadisce implicitamente le sue affermazioni sulle elezioni italiane. E quindi ribadisce che in Italia hanno vinto due clown. Non so, ma si può offendere il voto in questo modo? Chiedo. Allora ci mettiamo a dire che siccome la Merkel era cresciuta nel... Germania dell'Est, ha vinto un ex comunista, non so, chiedo. Che poi non è così offensivo come clown, permettete. No, non voglio andare oltre, ma facciamo una riflessione. Comunque uno la pensi su queste elezioni, sono elezioni libere in un paese democratico, che avrà per molti il voto è stato sbagliato, ho capito, ma uno rispetta le elezioni. Io sarei anche un po' stufo di venire trattato a pizza, spaghetti, mandolino dai tedeschi che quando nel 2003 avevano bisogno hanno sforato il deficit allegramente e noi, grosso errore di Giulio Tremonti, di Silvio Berlusconi, allora gliel'abbiamo fatta passare convinti che poi loro sarebbero stati grati con noi. Basta, le elezioni, un conto è dire che hanno creato instabilità, che la legge faceva schifo, la legge elettorale, quello che volete, ma dire che hanno vinto due clown, no? E poi se ci devi andare a parlare con i clown, come fai? Ti metti anche tu il pallino rosso sul naso? Vabbè. Adriana Ceretelli da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Con te vorrei parlare invece degli incontri di Monti, però insomma è chiaro che il caso più grosso si è avuto con l'annullamento dell'incontro tra il presidente Napolitano e il leader dell'SPD tedesca. Ti posso aggiungere una cosa a quello che tu dicevi, è che probabilmente Pier Steinbrück non ha futuro come cancelliere. Sì, non, ma è vero. Non è la prima volta che fa gaffe e purtroppo non sarà l'ultima. In ogni caso, appunto, si qualifica da solo. Ma sì, cioè uno può fare qualunque commento vuole, no? Cioè dire che ha vinto l'instabilità, che gli italiani non hanno capito, che può anche, siccome è un socialdemocratico, può giustamente anche criticare o essere deluso per la vittoria di Berlusconi, ma detto questo non si può arrivare all'offesa. Dire che Berlusconi è un clown e Grillo è un clown vuol dire offendere tutti gli elettori di Berlusconi e di Grillo, e non ha senso. Come, cioè, voglio dire, no, ma secondo me infatti il presidente Napolitano ha fatto benissimo e non è da tutti fare quello che ha fatto lui, per questo è assolutamente bene quello che ha fatto, per dimostrare appunto che non si può impunemente marciare sul paese. Ma basta. Perché non si può, ma anche se c'è l'euro, anche se loro sono la Germania e il leader d'Europa, ma insomma, ma chi ci se ne vuole frega? Un minimo di rispetto. Esatto, no, perché abbiamo già visto atteggiamenti analoghi con la Grecia. No, anche i titoli dei settimanali, il Partenone in vendita, tutto molto offensivo. Allora basta, perché poi la volta che toccherà anche a loro, occhio ai tedeschi, la ruota gira su nella vita. Nel 2003 erano in difficoltà e noi gli abbiamo dato una mano perché non sono partite le sanzioni. Vorrei anche ricordare ai tedeschi, adesso basta però con i tedeschi, che se non ci fosse stata un'Europa molto accondiscendente, l'unificazione tedesca non si sarebbe mai fatta con i parametri di Maastricht, con quello che è costata alla Germania assorbire la Germania dell'Est. L'hanno fatta perché non c'era Maastricht, non c'era il fiscal compact, non c'erano tutti questi vincoli. Ok? Chiudo con i tedeschi. Qual è l'attesa che tu respiri a Bruxelles per l'incontro con Monti? Ma l'incontro, diciamo, che punta a rassicurare sostanzialmente l'Europa e a dire che qualsiasi cosa succeda la situazione è sotto controllo, e questo è il messaggio implicito per quello che riguarda il paese. Dall'altro lato, Monti, ovviamente, in questo clima incerto post-elettorale, punta ad accreditare la propria immagine come di colui che è in grado di parlare immediatamente ai massimi leader europei senza lunghe attese, che quindi è l'uomo di riferimento a livello europeo, e quindi tende, dopo un risultato elettorale che sicuramente è stato molto deludente per lui, punta se non altro a rilanciare la propria immagine nella sua dimensione a più alto valore aggiunto, cioè come appunto interlocutore dell'Europa. Ecco, il fatto che Monti venga ancora visto come l'interlocutore più disponibile, me lo dico nel senso e attento, non è un po' strano alla luce del risultato elettorale? Cioè, qui, insomma, il prezzo di Monti è andato tra il 9 e il 10%, o è il segnale, Adriana, di una difficoltà di Bruxelles nel trovare altri interlocutori? No, io non credo che sia questo il problema. Credo che Bersani sia a sua volta ben introdotto, magari più nell'ambiente eurosocialista che non in quello delle istituzioni, ma credo che comunque abbia dei rapporti a sua volta. Ma credo che questa sia un'iniziativa di Monti, il quale accredita se stesso al di là di tutto, e nello stesso tempo fa anche il gioco di squadra con l'Italia in questo momento di incertezza, perché non ci dimentichiamo che se i calendari non verranno anticipati, noi da qui al 15 di marzo dobbiamo ballare con questi mercati. È vero che oggi si sono leggermente calmati, però non c'è da farsi molte illusioni nel caso in cui arrivassero dei segnali dalla dinamica politica poco incoraggianti e poco stabilizzanti. Per questo Monti, diciamo, fa un doppio gioco, che è personale e che è anche per il paese. Che preoccupazione, adesso ieri abbiamo raccontato la preoccupazione dei mercati perché si vedeva sulla borsa e quant'altro, ma a livello politico e quindi più a livello di Bruxelles, la lettura che ho visto, una dichiarazione che mi ha lasciato un po' perplesso, ed è quella di Almunia di oggi, ed è il commissario europeo alla concorrenza, ex commissario europeo all'economia, e dice: i risultati del voto italiano mi preoccupano, è a serio rischio la governabilità, e fin qui siamo tutti d'accordo, ma le motivazioni del voto sono da ricercarsi in Italia e non a Bruxelles. Ma veramente a Bruxelles si pensa che, cioè, i 620.000 di disoccupati, le politiche di rigore sulle pensioni, l'aumento delle tasse non c'entrino niente, in Italia non vengano percepiti come anche la richiesta di Bruxelles? No, certo, concordo perfettamente con l'analisi, ed è quello che ho scritto oggi sul giornale. In definitiva, c'è una questione italiana in Europa, ma la questione italiana in Europa pone il problema della questione europea in Europa. Cioè, l'Italia è il detonatore di una crisi che è molto più profonda, che affiora poco perché tutti fanno di tutto per cercare di tenerla sotto controllo, ma la vera verità è che il disagio italiano è un disagio europeo, ed è un disagio che certamente ha una matrice nazionale, ma ha anche una fortissima matrice europea, nel senso che l'adesione all'euro ha di fatto espropriato tutti i paesi della sovranità nazionale, e quindi tutti i tipi di politiche che si fanno, dall'austerità alle riforme, sono di matrice europea. Quindi è impossibile dire che questa è una crisi tutta italiana, questa è una crisi italo-europea. Come il voto, non so, che ha cacciato Sarkozy, in parte era un voto franco-europeo, perché l'Europa ormai fa parte della politica interna di ciascun paese aderente all'euro. Sì, diciamo che Sarkozy fa il paio, certo, loro hanno avuto Hollande, però Sarkozy ha perso le elezioni perché l'appoggio della Merkel è stato il bacio della morte, è stato visto come troppo filo tedesco, troppo filo europeo. Devo dire, da questo punto di vista, Adriana, che tu fai bene a ricordare come, attenzione, l'Italia, per carità, i problemi sono nostri, cioè facciamo l'esempio del malato: se tu ti ammali perché hai preso freddo, è colpa tua, non è colpa del medico. il medico, e quindi Bruxelles è il medico che parla tedesco, ha la responsabilità di averti dato una cura che ha fatto peggiorare la malattia, ossia una cura da cavallo, invece che avere un decorso più morbido. Non sto dicendo che il debito è colpa dei tedeschi, ma figuriamoci, sono soldi che ci siamo mangiati noi, la nostra pubblica amministrazione costa troppo, gli sprechi della politica non solo li vediamo tutti i giorni, li raccontiamo tutti i giorni, però la cura che tu dai è importante tanto quanto la malattia. Chiedere a un medico, perché se la cura è troppo forte, ma ammazzi il paziente, che è il rischio che stavamo correndo e stiamo ancora correndo con la Grecia. Per concludere, perché ho molto apprezzato il tuo commento oggi su Sole 24 Ore, e non c'è notizia qui però, Adriana, quanto ci vorrà capire? Qui c'è un asse che si sta creando, cioè la Francia è molto scontenta di questa Europa, la Spagna non aspetta altro, la Grecia, figuriamoci. Quanto ci vorrà capire che sarà inevitabile il montare di una protesta se continua a aumentare la disoccupazione in Europa e se non si cercano politiche anche per rilanciare l'economia? Ma io sono sicura che prima o poi i nodi verranno al pettine e l'Europa potrebbe esplodere. Tutto dipenderà dall'intelligenza della Merkel, perché penso che sarà la Merkel a vincere le prossime elezioni, a meno che non succedano degli incidenti, degli imprevisti che in questo momento non sono immaginabili. E quindi io credo, cioè c'è già stato il segnale della flessibilità interpretativa del patto di stabilità appena varato, fiscal compact e compagni. Quindi questo è già un segnale che la Merkel capisce che oltre un certo limite non si può tirare la corda. Ma la flessibilità non basta, bisogna dare una botta di ossigeno all'economia europea. Ora, il bilancio pluriennale approvato dice che i tedeschi non vogliono investire in Europa, però se vogliono stare in Europa e soprattutto salvare l'euro, devono fare qualcosa per, diciamo, puntellare il sud, altrimenti il sud esplode. E a me, cioè, voglio dire, non penso che sia nell'interesse neanche dei tedeschi, ma figurati, sono terrorizzati l'idea che il sud esplode, perché poi l'euro così a loro fa comodo, vorrei vedere un euro molto più forte per la Germania e molto più debole per l'Italia, o addirittura la lira, come e dove andremo a parare. Vedo che alcuni dicono non è una questione di offesa al voto, ma concreta visione di un paese che ha questa nomea di spaghetti mandolino grazie ai vari inciuci, a Batman, immagino Fiorito, e non vuole cambiare strada. Ci meritiamo questo. No, mi dispiace Alex da Parma, non sono assolutamente d'accordo. Uno può esprimere qualunque valutazione sul voto senza offendere. Dire che hanno vinto due clown, poi non vado oltre perché è una cavolata ed è un'offesa. Nessuno qua si permetterebbe di dire frasi del genere sul prossimo vincitore in Germania a settembre, ok? E qualunque esso sarà, è vero è invece che da questa crisi dei paesi del sud la Germania molto molto molto molto si è avvantaggiata, col cavolo che aveva i rendimenti dei Bund a zero se non c'era la crisi dell'euro, della crisi, diciamo, dei debiti spagnoli, italiani, irlandesi, portoghesi e greci. Grazie Adriana Ceretelli. Di nuovo in diretta alle 17:40 minuti con Sebastiano Barisoni. Sta ancora parlando il Presidente della Repubblica Napolitano in Germania, dice Italia e Germania parte di patria comune che è l'Europa. Adesso non è che possiamo fare tutta la puntata sulle dichiarazioni dei leader dell'opposizione che hanno portato il nostro Presidente della Repubblica a annullare l'incontro con Steinbrück, appunto, che aveva definito, e non ha smentito, ha detto quel che è detto non voglio offendere Steinbrück, però che ha detto in Italia hanno vinto due clown, pesantissimo come giudizio, né continuare, addirittura un clown di professione e un clown con troppo testosterone, e questo è il modo in cui si esprime sulle democratiche elezioni di un paese quello che vorrebbe guidare la Germania come cancelliere dell'SPD. Tanto sappiamo già che perderà le elezioni, ma meno male a questo punto. No, una chiosa la devo dare, però molti di voi dicono ma insomma ce lo siamo meritate perché Berlusconi definì Angela Merkel con quella frase che non posso ripetere perché ci sono bambini in macchina, ma diciamo con un eccesso di peso nella parte posteriore che non avrebbe portato a una conoscenza biblica, mettiamola così. Ma non c'entra niente, perché quelle furono sbagliatissime, ci mancherebbe, ma quella roba lì è emersa dalle intercettazioni telefoniche in cui uno al telefono dava questa definizione di Angela Merkel. Per carità, poi si creò un caso diplomatico, ma in questo caso Steinbrück non è stato intercettato al telefono, ma ha parlato ufficialmente, commentando ufficialmente come leader dell'opposizione l'esito elettorale italiano, e bene ha fatto il Presidente della Repubblica a rifiutarsi di incontrarlo e a cancellare l'incontro. Non facciamoci sempre del male da soli, ok? Poi che noi abbiamo mille difetti lo sappiamo, che ci meritiamo anche che tutti siamo preoccupati, lo sappiamo, però da lì a vedere così il dileggio pubblico del futuro leader, del leader dell'opposizione tedesca, ce ne passa, ok? Chiunque sia votato democraticamente, chiunque sia votato. Va bene, dai, la borsa adesso e poi andiamo avanti con la cronaca di questa attenzione anche eccessiva e delle volte smodata dell'Europa nei nostri confronti. La borsa. Allora, borsa che oggi ha tentato un recupero, chiude quasi sui massimi, in rialzo dell'1,77%, meglio ha fatto Parigi più 1,90%, Francoforte più 1%, Londra più 1%, gli Stati Uniti stanno guadagnando lo 0,70%, i titoli, bene Buzzi Unicem più 4% come Estima Microelectronics e Prismian, l'ex Pirelli Cavi, Popolare Emilia Romagna più 3%, Tenaris più 2,80% come Fiat, Campari più 2,60 come Generali, Autogrill più 2,40, Ubibanca pure, Eni più 2,20 come Mediaset, Pirelli più 2% come Exor. Chi è andato male? Mediobanca meno 2,20, Monte dei Paschi meno 2,11 e Popolare Milano meno 0,30% come Salvatore Ferragamo. Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, nessun recupero sufficiente per i bancari, però partiamo da chi oggi si è mosso bene, Buzzi, Estima Microelectronics e Prismian. Sì, oggi diciamo che il mercato in generale ha tentato di rialzare la testa, quindi in primis i bancari, anche perché lo spread è rimasto abbastanza costante sui valori di ieri, e poi alcuni titoli, Buzzi e soprattutto ST, che ha fatto sul finale più 4,1%, non ci sono motivi particolari, è andata bene anche la Prismian, quanto ovviamente si va un po' a caccia dei buoni affari, si va a scommettere sulle società che ieri sono andate male, hanno perso punti e su cui ovviamente si scommette sul futuro. Prismian ad esempio proprio oggi ha comunicato i conti di bilancio, l'utile netto è salito nel 2012 del 22%, la cedola sarà generosa, sarà raddoppiata rispetto a quello dell'anno precedente, quindi ovviamente se andate a comprare un'azione di questo genere, oppure ST si scommette un po' sul recupero dell'azienda, sul rilancio, e si vanno a comprare appunto, ripeto, le azioni che sono scivolate molto e su cui si vedono delle storie di successo. Eh sì, oggi per fortuna un po' più selettivo il mercato, e vale per i tre titoli che citavi. Devo dire invece Mediobanca oggi a sorpresa meno 2,20%. Sì, tra i bancari ci sono due casi, Mediobanca e MPS, meno 2% Mediobanca, non hanno convinto i conti che l'istituto ha pubblicato ieri in tarda serata, nonostante l'utile sia praticamente raddoppiato portandosi a 124 milioni, ma evidentemente gli analisti non sono rimasti convinti, oppure alcuni analisti hanno detto se dovete comprare, comprate Generali. Infatti Generali non a caso è salita quasi del 3%, perché praticamente negli ultimi mesi Mediobanca è andata meglio di Generali. Ricordiamo che Generali pesa molto all'interno di Mediobanca. Mediobanca infatti è l'azionista di riferimento dell'assicurazione. E poi per quanto riguarda MPS è andata giù perché ovviamente gli investitori si interrogano su quello che è lo scenario politico che si è aperto, e quindi se questo possa andare a impattare anche sulla banca. Del resto ricordiamo che Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno più volte ripetuto in corso di campagna elettorale che nel caso in cui fossero andati al potere avrebbero sicuramente richiesto una commissione sul caso MPS. Ancora tra i titoli invece molta attenzione su Telecom Italia, abbiamo visto oggi. Eh sì, perché perché oggi si è tenuto un consiglio di amministrazione di Telecom Italia Media per analizzare l'offerta di Cairo. Poi c'è stata un po' di fuga anche di notizie. In verità il CDA di oggi era un po' per analizzare l'avanzamento dei lavori, lo stato dell'arte dell'offerta, offerta che a quanto risulta a Radio Core peraltro non è stata ancora l'offerta definitiva messa sul tavolo da Cairo. Oggi c'è stata una lunga riunione anche da Cairo proprio per valutare gli ultimi dettagli che saranno a breve presentati, e sicuramente ci saranno a breve delle novità. Oggi c'era questo CDA, ma diciamo che era, definiamolo di routine, un CDA per fare il punto. In ogni caso, ovviamente, solo al fatto che c'era questo CDA e quindi si scommetteva che magari venissero prese decisioni definitive, si sono mosse in rialzo sia le azioni di Telecom Italia più 0,9%, ma soprattutto quelle di Telecom Italia Media, che sul finale sono salite del 2%, ma nel durante della seduta erano arrivate a guadagnare oltre il 3%. Ancora tra i migliori e peggiori della seduta, segnalo in assoluto Gemina sulle risparmie non convertibili più 20,80%, investimento e sviluppo più 9,55%, titoli molto sottili a parte SNAI più 4,80%, peggior titolo Meridiana Fly, una bella scoppola, meno 19%. Meridiana. Sì, Meridiana Fly ieri ha comunicato i conti del bilancio 2012, si tratta di conti poco incoraggianti, la perdita infatti è stata di 190 milioni, anche i ricavi hanno registrato una netta flessione. A questo punto comunque vediamo come andrà a finire l'OPA lanciata dall'Agacan, che per adesso detiene quasi il 90% del capitale, che punta ovviamente al 100%. I titoli sono un po' sopra il prezzo di offerta, sono scambiati a 0,66 quando il prezzo dell'OPA è a 0,6 euro. Ancora vorrei dare ancora due titoli tra i peggiori. Telecom Italia Media sul risparmio, come tu ricordavi, meno 13,40%, Borgo Sese meno 4,71%, Banca Popolare di Spoleto meno 4,30%. Grazie Eleonora Michele, Radio Core di Sole 24 Ore. Noi stiamo per collegarci con chi ha seguito l'ultimo intervento del Presidente della Repubblica Napolitano. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, da Monaco di Baviera, l'inviata del Sole 24 Ore, Lina Palmerini. Lina, buonasera. Ciao, buonasera. Ha da pochissimo terminato il suo intervento il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Abbiamo visto, dicevamo, un richiamo di nuovo alla polemica di questa mattina che ha portato il Presidente della Repubblica a cancellare l'incontro con il leader dell'SPD. E mi sembra di aver visto, ma guardavo velocemente le agenzie, Lina, che Napolitano sia tornato sul tema del rispetto. Ho visto bene? Sì, guarda, sì, hai capito benissimo, ed è vero il collegamento, è giustissimo il collegamento che hai fatto con il rifiuto di Napolitano di incontrare questa sera Steinbrück, che è il candidato cancelliere dell'SPD, del Partito Socialista Tedesco, alle prossime elezioni tedesche che ci saranno a settembre. In qualche modo Napolitano abbiamo un problema di collegamento, adesso lo ripristiniamo con Lina Palmerini, e chiaramente è nella zona dove è appena terminato l'incontro e l'intervento del Presidente della Repubblica Napolitano, mentre vedo adesso un'ultima agenzia, Schäuble, eccolo qua, poi dite che non devo parlare della Germania, Schäuble, il Falco, il Ministro delle Finanze, c'è pericolo di contagio da Italia, ma contagio di cosa? Contagio sul voto, vorrei capire, cioè che prende a piedi in Europa un movimento di protesta contro queste questa austerity europea, o contagio sull'euro, contagio sugli spread, contagio su che? Vorrei capire. E intanto è tornata con noi Lina Palmerini. Lina, non ce l'ho ancora. Allora vi vado a leggere l'ultima. Ecco, Lina, ce l'abbiamo fatta. Mi rendo conto che... Sì, ce l'abbiamo fatta, per fortuna. No, ti abbiamo perso nel momento in cui tu stavi ricordando come la frase di Napolitano si ricollegasse a quello che è capitato questa mattina. Prego. Sì, al rifiuto di incontrare Steinbrück, perché lui ha spiegato: io sono qua come Presidente della Repubblica, rappresento la Costituzione, il mio mandato è quello di rappresentare l'unità nazionale che non è molto diverso dal rappresentare la dignità nazionale. E in questo momento, su questo punto, proprio Napolitano si è anche commosso. Devo dire che in un discorso di mezz'ora lui si è commosso più di una volta, quasi 3-4 volte, parlando anche in un altro passaggio del suo discorso, del rispetto che l'Italia ha verso la Germania e che la Germania deve verso l'Italia. Ha parlato dell'Italia di un paese con luci ed ombre, ma comunque ha rassicurato anche da questo punto di vista il fatto che l'Italia troverà una sua strada costruttiva per uscire da questo momento così di impasse politico che sappiamo. Ecco, per quello che riguarda invece gli altri incontri del Presidente della Repubblica, che continua anche, rientra poi questa sera in Italia. Lui è appena partito, no? Sì. Lui rimane in Germania, è appena partito, sta andando all'aeroporto di Monaco, sarà a Berlino questa sera. Questa sera ci sarà una cena con l'ambasciatore, alla quale appunto non parteciperà Steinbrück, perché Napolitano ha deciso di non incontrarlo dopo le sue dichiarazioni ritenute inopportune, o anzi peggio, come ha detto proprio Napolitano. Ricordo che Steinbrück aveva detto che in Italia avevano vinto due clown alle elezioni. Quindi ha questa sera questa cena, però diciamo la giornata clou è quella di domani. Domani c'è prima l'incontro con il presidente Gauck e poi ci sarà l'incontro con Angela Merkel. Un incontro e un pranzo ufficiale, e quindi insomma, certo, sapremo anche domani pomeriggio come sarà andata. Allora, noi ci risentiremo domani, buon lavoro e buon viaggio a questo punto anche all'inviata del Sole 24 Ore Lina Palmerini. Allora, alcuni di voi mi chiedono al 349-238-6666, ma perché in un programma di economia parlate della missione di Napolitano, missione, visita ufficiale in Germania? Beh, perché in questo momento, con quello che è successo dopo le elezioni, il confine tra economia e politica, come abbiamo visto ieri sui mercati, come vediamo anche oggi sull'asta dei BTP a 10 anni, non c'è. Cioè tutta la variabile economica dipende da quella politica in questo momento, e quindi capire anche le eventuali tensioni che si dovessero aprire con la Germania, sia sul fronte più formale e anche di stampa e anche di opinione, è fondamentale per capire dove andiamo a parare qui e che tipo di accoglienza ci riserva l'Europa. E sappiamo che poi l'Europa è quella che determina le politiche economiche di un paese. Leggo ancora altri messaggi. Volete sapere lo spread? L'abbiamo dato in apertura, ve lo ridò molto volentieri. Era risalito oltre 350 punti base questa mattina, poi è sceso sotto i 340 punti. A mio avviso la cosa più preoccupante è che i CDS, sono i credit default swaps italiani, valgono più di quelli greci, quindi il premio per assicurarsi sul rischio Italia è più alto del premio per assicurarsi sul rischio Spagna, scusatemi, non Grecia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso continuare a parlare, vedo che molti applaudono a come il Presidente della Repubblica Napolitano ci ha difeso, ha detto esigiamo dagli tedeschi lo stesso rispetto che noi diamo a loro, sulla loro storia e sulla nostra storia. E rispetto era riferito alle parole appunto del leader dell'opposizione tedesca, che aveva detto questa mattina che in Italia hanno vinto due clown, e poi non è tornato indietro, ha detto infatti Steinbrück quel che è detto, non posso continuare su questo, però dico una cosa, cito una battuta, meglio clown che animali da circo ammaestrati. No, su questo non transigo, lo dico subito, uno politicamente la pensi come vuole, noi abbiamo criticato tutti i governi quando non ci piacevano. Quando non ci piacevano, non ci convincevano le politiche economiche e quant'altro, però il rispetto per le elezioni democratiche di un paese, a maggior ragione se nell'area euro, ma anche se non fosse nell'area euro, è dovuto, punto e basta. Allora, gli scenari e il movimento di pancia delle agenzie di rating, perché lo dico? Perché non c'è solo Moody's che ha detto appunto questa mattina l'incertezza negativa per il voto, ma c'è anche il Wall Street Journal che dice tutti i voti dell'intera area euro sono a rischio dopo le elezioni italiane. Anche se devo dire due giorni fa, l'altro ieri, Standard & Poor's aveva detto non ci sarà un impatto immediato. Dottor Alessandro Capuano, che è Managing Director di IG Markets Italia, buonasera. Sì, buonasera. Voi avete fatto oggi un'analisi in cui temevate anche il silenzio di Fitch, cosa vuol dire? Che è la terza delle tre agenzie di rating. Ma sì, perché è anche quella che ha lasciato il rating più alto sull'Italia, è quella che ha un outlook negativo sul nostro paese da un anno. Bene o male S&P, Standard & Poor's e Moody's hanno commentato immediatamente dopo le elezioni dicendo che non è una situazione favorevole per il rating, però monitoreranno con attenzione gli effetti, e comunque gli effetti non saranno nel breve periodo. Fitch non ha parlato, il che ci dà la sensazione, anche per il fatto che è rimasta con un voto più alto rispetto alle altre agenzie, che potrebbe aggiornare il suo rating già nei prossimi giorni e allinearsi con quello che sono quello delle altre agenzie. Questa è una preoccupazione. Del resto i rendimenti in salita sui mercati esprimono questa nostra preoccupazione. Ecco, fino a che livello secondo voi di spread, visto che oggi ha ballato tra 350 e 348 punti, diciamo fino a che il livello del rating non segnala un allarme vero e proprio? Il livello dello spread, mi scusi. Ma in genere lo spread anticipa il taglio dei rating. I rating sono un qualcosa che intervengono solo in una fase successiva, se sono più lenti, il mercato si aggiorna immediatamente. Noi comunque pensiamo che lo spread possa sicuramente continuare a rimanere sopra i 300 punti, difficile che nel breve ritorni sui livelli che abbiamo visto immediatamente dopo gli exit poll, che davano una maggioranza stabile, e potrebbe anche spingersi intorno ai 370-380. Le larghe intese sono l'aspettativa del mercato ed è lo scenario migliore che ci si può attendere per poi far riscendere lo spread su livelli più normali. Sì, bisogna vedere, larghe intese intende PD-PDL, cioè un governo come quello che in qualche modo ha sostenuto Monti? Esattamente, mm-hmm. Quello è lo scenario favorito dal mercato. Grillo è una variabile, è molto variabile, quindi è un qualcosa che ha fatto sbagliare i sondaggi, ha fatto sbagliare gli exit poll e neanche i mercati riescono a decifrarlo, quindi sarebbe preferibile lavorare con delle controparti tra virgolette più stabili o più conosciute e una politica più consona, che potrebbe essere quella del PDL e del PD. Ecco, oggi sono saliti anche i CDS, lo ripeto spesso, sono i credit default swaps, ossia i premi che si pagano sul polizza, chiamiamola così, per assicurarsi sul rischio Italia, così come il premio che tu paghi all'assicurazione auto aumenta se tu sei un guidatore pericoloso a rischio, aumentano anche i premi per i paesi ritenuti più a rischio. Oggi abbiamo superato su più di un punto la Spagna. La preoccupa un livello di CDS a 291? Beh, preoccupante, riflette lo scenario di instabilità, ma anche qui riteniamo che siano dei livelli un po' tirati. Quando ci sarà una chiarezza e quanto si comincerà a capire che è possibile andare sulle larghe intese, che secondo noi è l'unica cosa che ha senso per il paese, perché la cosa più preoccupante per i mercati è riandare alle elezioni con una legge elettorale che probabilmente tirerebbe fuori un ulteriore scenario di instabilità. Anche i CDS dovrebbero ritornare su dei livelli più consoni, che sono sicuramente quelli al di sotto della Spagna, perché i fondamentali dell'Italia, non dimentichiamolo, sono decisamente migliori dei fondamentali della Spagna. Anche eventuali aiuti BCE, noi riteniamo che è più probabile che li chieda la Spagna ben prima dell'Italia. Allora, leggo assieme a lei adesso una dichiarazione del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, uno dei falchi del governo Merkel, che ha detto poco fa: il risultato inconcludente delle elezioni italiane rischia di far scoppiare una nuova tempesta sui mercati. E Schäuble chiede, parla di un rischio contagio anche per gli altri paesi europei e invita i politici italiani a formare rapidamente un governo stabile. Penso che l'invito sia un invito di prammatica. Il problema non è che non vogliono formare un governo stabile rapidamente, che non sanno come, diciamola tutta. Però le preoccupazioni che stanno arrivando in maniera pressante, al di là dello scivolone del leader dell'SPD, che adesso vediamo, c'è stata una telefonata tra Steinbrück e Napolitano, ma stanno a segnalare che poi la pressione è destinata a aumentare in questi prossimi giorni. Cioè, quanto secondo voi, secondo la prospettiva dei mercati, l'Italia può metterci per formare un nuovo esecutivo, chiaramente con una maggioranza solida in Parlamento? Stando anche alla procedura, che non è sicuramente le più snelle, secondo noi i prossimi 15 giorni possono essere ancora giorni di turbolenza sui mercati, cioè non sarà chiaro da subito. Bersani ieri ha provato la mossa di convincere Grillo, ma si vede che è qualcosa... È già finita, si sono già presi a schiaffi oggi. Esatto, qui. Esatto. E non ha funzionato, è l'unico... punto su cui andare adesso è Monti e il PDL, e sarà forse difficile convincere il PDL a stare insieme a Monti, però la soluzione più sensata per tutti, ma soprattutto per i mercati, è quella di trovare una soluzione più velocemente possibile. Riteniamo auspicabile che in 15 giorni quantomeno la strada si dirigga verso scenari di una stabilità forzata, chiamiamola così. Allora, grazie, era importante capire appunto il movimento anche delle agenzie di rating in questo momento. Grazie al Managing Director di IG Markets Italia, Alessandro Capuano. Allora, è durata meno di una giornata l'ipotesi di un'apertura, stante così le cose, tra PD e Movimento 5 Stelle. Grillo ha detto che Bersani è uno stalker politico, fa proposte indecenti, nel blog lo ha anche definito morto che parla, e Bersani ha risposto a Grillo: dica ciò che ha da dirmi in Parlamento, insulti compresi, lo voglio sentire in Parlamento, e lì ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Allora, a Stefano Fassina, che è responsabile economico del PD, chiedo: è già finita l'ipotesi Grillo? Poi arriviamo alla parte economica. No, nel senso che Bersani ieri è stato molto chiaro, propone un programma circoscritto con alcuni punti che riguardano l'emergenza morale, chiamiamola così, che sta sul versante politico, e alcuni punti sull'emergenza economica, li offre a tutto il Parlamento. Sono punti che rispondono alle domande che vere, giuste, condivisibili, che tanti elettori che hanno votato il partito di Grillo hanno manifestato. Noi andiamo convinti avanti su quella strada. Poi i parlamentari si assumeranno la responsabilità di dire sì o dire no rispetto al taglio dei costi della politica, alla riduzione del numero dei parlamentari, in una ipotesi di nuova legge elettorale e così Quindi, secondo lei non è ancora detta l'ultima parola sull'apertura di Bersani a Grillo? C'è ancora margine? Ma vedremo appunto quando si riunirà il Parlamento e ci sarà da votare su un programma di governo che ha quei punti. I parlamentari si assumeranno le loro responsabilità. Dopodiché, ecco, mi pare che ci sia stato nel partito di Grillo ci sia stata una sollevazione abbastanza ampia e diffusa contro le parole e contro quanto Grillo ha detto rispetto alla proposta che Bersani ha avanzato. Ecco, però Fassina, veniamo al PD, perché in questo programma da tempo diciamo che forse con l'Europa, intesa come Germania, Europa a trazione tedesca, bisognava alzare la voce un po' di più. Monti non l'ha fatto, è inutile continuare a girare attorno, le politiche per lo sviluppo si fanno solo se il fiscal compact viene ammorbidito, cioè l'obbligo di ridurre per 20 anni il deficit, che vuol dire il debito, che per noi vuol dire 40 miliardi all'anno. Cioè se la smettiamo con le terapie da cavallo quando il cavallo sta male. Queste cose si possono chiedere quando l'economia cresce, anche perché l'esempio greco non è dei più edificanti. Allora, lei è disponibile ad ammettere che forse voi siete stati troppo morbidi sulle proposte economiche? Mi riferisco anche al commento di Antonio Polito oggi su Corriere della Sera, sia sull'equità fiscale, sul ritorno delle tasse, sia sulla posizione da prendere in con la Germania in Europa. Cioè non è che avete avuto paura di sembrare poco istituzionali verso l'Europa e vi siete giocati la pancia degli italiani? Ma guardi, è veramente surreale il dibattito che lei adesso ha riassunto. Io conservo gli editoriali dei giornali tipo il Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, quando nell'estate 2011 l'Italia, il governo Berlusconi, prese l'impegno al pareggio di bilancio nel 2013, tutti editoriali a sostegno, a rafforzamento di questo obiettivo ambizioso che finalmente si metteva a ordine la nostra finanza pubblica. I nostri guai derivano da quell'impegno preso allora, anzi io l'ho scritto non negli ultimi giorni, l'ho scrissi nell'aprile 2011, quando il DPF del governo Berlusconi prese l'impegno al pareggio di bilancio nel 2014, dissi che era un impegno suicida, sarebbe stato completamente irrealistico. Ho capito, dopo ma questo poi Berlusconi su questo ha cambiato idea. Ma non è un particolare, non è che siamo... No, però io non vorrei che adesso di Berlusconi poi parleremo con i suoi esponenti. No, io vorrei capire se il PD nella sua campagna di comunicazione, perché poi la politica si fa comunicando, non facendo solo documenti, non è stato troppo morbido o troppo percepito come non sufficientemente deciso nel dire bisognerà cambiare rotta l'Europa. C'è François Hollande che non aspetta altro che l'Italia sia lei, tra virgolette, con la Francia per bloccare l'egemonia tedesca, e invece lì sì, beh, vedremo. E anche sulle risposte alla politica interna, cioè ci sono 620.000 disoccupati in più, dato Istat nel 2012. Veramente... No, aspetti, volevo capire, sì. Lei su questo non ha un po' di autocritica da fare? Forse dovevamo essere più incisivi nella comunicazione. Ma non, per carità, tutti sbagliamo, Fassina, nella vita. Ma guardi, trovo surreale che mi si venga a fare questa critica. Cioè, alcuni di noi, in particolare il sottoscritto, è stato crocifisso e additato alla pubblica opinione come responsabile, con editoriali dello stesso Polito che oggi scrive, come lei ricordava, sul Corriere della Sera, perché mi ero permesso di dire che quegli obiettivi erano irraggiungibili. Quindi c'è una completa cancellazione di quella che è stata non la storia ma la cronaca degli ultimi anni. È evidente che era sbagliata la politica economica. Alcuni di noi hanno detto, dopodiché quando Monti è arrivato l'impegno era stato già preso per il pareggio di bilancio del 2013. No, ma io mi riferivo soprattutto a quello che avreste fatto voi se aveste vinto, e il condizionale a questo punto è d'obbligo. O è stata colpa del ricevente nel non capire il vostro messaggio, però a me hanno insegnato che quando c'è un errore di comunicazione è sempre l'emittente che sbaglia, non il ricevente. Se uno non capisce lo devi spiegare in un altro modo. Chiedo, No, ma guardi, non ho problemi. Noi abbiamo detto che la politica economica dell'Eurozona non funziona. Sì, no, ma ho capito, so che l'avete detto. Volevo capire, secondo lei, se questo messaggio non è passato, cioè Fassina, qui non è che avete ottenuto il risultato elettorale che vi attendevate. Allora, siccome il tema economico è il tema della campagna elettorale e il PD da sempre... C'è stato anche un altro tema molto rilevante, che è quello della moralità, della caduta di moralità della politica, che non ha pesato certamente meno dei temi di politica economica. Vabbè, sì, lì lo possiamo allargare anche al rapporto tra partiti e finanza, e lì andiamo sul Monte dei Paschi. No, ma io non volevo arrivare al Monte dei Paschi, volevo parlare di un'altra cosa. Cioè, secondo lei, visto che questa trasmissione si occupa di economia e cerca di spiegarla, alla luce del risultato elettorale, c'è stato o no un errore di comunicazione? Non dico che non aveste i contenuti, che non aveste... No, ma Credo che col senno di poi, sì, dopodiché le ricordo l'ostilità di tutti i media, di tutto il dibattito pubblico rispetto ad ipotesi che non fossero la pedissequa e ortodossa e più rigida possibile attuazione dei dettati della BCE, della Commissione Europea e quant'altro. Oggi si fanno queste discussioni, ma se lei riprende i giornali o i dibattiti televisivi fino a 10 giorni fa, il clima era completamente diverso. Vabbè, allora, no, capito che lei dice, comunque, forse abbiamo sbagliato, adesso non mi faccia Fonzi, però su questo fascina. Mi dica una cosa però adesso, che però abbiamo ancora 3 minuti. Trovo singolare che si faccia questa critica a noi, che siamo stati gli unici a porre il problema della politica economica nell'Eurozona. Allora, non ho capito io e non hanno capito gli elettori, però mi dica una cosa, adesso se voi andate al governo, vedremo con chi. Qual è la prima richiesta che farete a Bruxelles e quindi anche alla posizione tedesca? In un minuto, me la dica una. Ma io penso che dobbiamo riprogrammare gli obiettivi per evitare di aumentare l'IVA quando è a luglio. A luglio. Per evitare di dover fare una manovra per coprire spese necessarie, come il finanziamento della cassa integrazione in deroga, come il finanziamento delle spese per le missioni internazionali, oppure la proroga dell'agevolazione fiscale del 55% e del 50% per le ristrutturazioni edilizie o per i contratti di servizio con le composte Ferrovie dello Stato, cioè quei 7 miliardi di impegni che Monti non ha coperto e che cioè evitare la manovra correttiva e l'aumento dell'IVA in automatico a luglio. E questo diciamo prevede comunque anche una revisione degli accordi presi con Bruxelles. In una battuta, ma se ci fosse un irrigidimento tedesco anche per via delle elezioni, l'Italia dovrebbe battere i pugni minacciando qualunque cosa, secondo lei? Sì, io penso che dovremmo andare avanti perché ci stiamo avvitando in una spirale soffocante che, come non ci siamo stancati di dire, porta all'aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL. Mi pare che questo sia sempre più evidente. Dopodiché io non è che voglio fare Fonzi, ritengo che avremmo potuto essere più chiari, l'ho detto anche ieri sera nella riunione che abbiamo fatto del mio partito, del coordinamento politico del mio partito. Dopodiché mi trovo un po' ecco irritante, non le sue parole, perché lei sta riportando dibattito. Trovo e mi colpisce la disinvoltura con la quale in questo paese davvero non mi riferisco a lei, ma chi fino a 10 giorni fa mi crocifiggeva perché ero troppo estremista e lassista, e oggi mi viene a fare la critica. Mi dica solo una cosa, Fassina, per concludere, che veramente stiamo alla fine, in un paese in cui si dice che ci vorrebbe merito e selezione del merito anche nella classe dirigente, ma secondo lei i vertici del PD non dovrebbero dimettersi dopo il risultato? No, non dovrebbero dimettersi, perché comunque siamo arrivati primi, nonostante non abbiamo la maggioranza al Senato, è un dato, non è un dettaglio. Abbiamo fatto una battaglia difficilissima, ci siamo assunti, ora non se lo ricorda più nessuno, ci siamo assunti anche qua un onere per la nascita e sostegno al governo Monti, che non aveva ordinato il medico di averlo, ma l'abbiamo fatto perché appunto il paese era sull'orlo del precipizio. Siamo diciamo l'unico partito che può dare un governo credibile a questo paese, quindi non vedo perché i vertici del PD dovrebbero dimettersi. Va bene, quindi nessuna dimissione, il risultato non è tale da portare alla dimissione dei vertici. Io la ringrazio, grazie anche per la chiarezza, grazie a Stefano Fassina, responsabile economico del PD. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.